Intervista numero 7, progetto WWF, a Vanna Balboni. Ho il piacere di intervistare una persona che dalla sua esperienza ormai pluridecennale, da questa tribuna che è il supermercato Crai e prima altre forme di vendita al dettaglio, ci può raccontare delle storie interessanti sul rapporto degli abitanti con l'alimentazione, col cibo e con la grande distribuzione. Ti passo la parola. Vai pure, vai pure. Sì. Niente, sicuramente sono cambiate tante cose. Io sono 67 anni e da sono ormai, posso dire che sono 60 anni che ho un negozio di alimentari. All'inizio, con mia mamma e mio papà, avevamo un piccolo negozio in una borgata. Posso dire il nome? Sì, certo. Il borgo di Chiericatti, una borgata a 1,5 km dal centro di Voghera, un negozio dove si vendeva di tutto, dalle sigarette agli alimentari, addirittura, ecco, mi ricordo che si vendevano anche le budelle per fare i salami, perché una volta facevano gli insaccati in casa. E come dicevo con Matteo, io a 6 anni mi mettevano una cassetta sotto i piedi per arrivare alla affettatrice, che era una affettatrice manuale naturalmente, di quelle che si giravano con la mano, e per cui sono nata in un negozio di alimentari. Poi da lì ci siamo trasferiti, mia mamma poi non c'era più, e ci siamo trasferiti io e mio papà in un altro negozietto, però nella piazza di Voghera, proprio all'interno della piazza, un negozietto piccolo ma con un po' di tutto. E da quel negozietto lì poi ci siamo trasferiti e mio papà ha deciso di acquistare il consorzio agrario, visto che era in vendita, ha fatto questo impegno e abbiamo aperto questo mini market, per cui sono passati tantissimi anni. In questo mini market io ho lavorato 10 anni come collaboratrice familiare con mio papà e dipendenti. Dopodiché abbiamo ceduto l'attività, ho continuato a lavorare come dipendente per altri 10 anni, poi ho ricomperato l'attività, mantenendo sempre di mia proprietà l'immobile, ho ricomperato l'attività e sono quasi 11 anni che sono titolare. Quindi cosa è cambiato? È cambiato tutto, dalle famiglie che prima erano numerose, quindi c'era mamma, papà, figli, in genere 2-3 figli in quasi tutte le famiglie, poi in queste famiglie c'erano anche i nonni, c'erano gli zii, c'erano le zie, i nipoti, c'erano famiglie molto grosse, e questo me lo ricordo benissimo perché quando avevamo il negozio nella borgata, anche la mia famiglia era grossa, io vivevo con un sacco di persone, di zii, di cugini, di nonni. Poi piano piano le famiglie sono diventate più piccole. E cos'è cambiato per quanto riguarda l'alimentazione? Prima di tutto, allora c'era proprio la zora che faceva la spesa una volta alla settimana e che faceva tutto in casa, dalla pasta, la carne naturalmente una volta si mangiava poca perché non c'erano i soldi e non c'erano proprio possibilità economiche, e la Zora faceva di tutto, recuperava anche l'irrecuperabile per poter portare, per poter dar da mangiare a tutti le persone della famiglia. Col tempo questa cosa è venuta proprio a modificarsi, diciamo che adesso, se vogliamo parlare di oggi, ci sono tantissimi single che una volta non esistevano, le persone da sole non c'erano, per cui che cosa comprano i single? Non fanno una spesa grossa, comprano spesso e per lo più prodotti già pronti, anche perché per via del lavoro non c'è il tempo per cucinare, per tante altre cose, prodotti pronti di gastronomia e anche dolci. Infatti una volta non si vendevano dolci già fatti, o comunque pochissimi, e non si vendevano paste già pronte, già condite, non si vendevano verdure già pronte, già fritte. E una volta si comprava più il fresco e poi sì, si preparava a casa. Adesso invece le persone hanno bisogno di fare prima e di trovare la roba già pronta. Si va a casa, si apre il pacchetto ed è già tutto pronto. Questo è sicuramente, e da qui è cambiato proprio la filosofia di vendita, è cambiato un po' tutto. Una volta sì, si facevano queste spese grosse una volta alla settimana, adesso invece la gente tende a comprare tutti i giorni più o meno quello che serve, ecco. Per quanto riguarda me e il mio negozio, è chiaro che io non posso competere con i grossi colossi, quale può essere un Ipercoop o un Eurospin. Non sono vicinissimi al mio negozio, però ci sono. Diciamo che adesso la gente ha la macchina e può spostarsi, e se può decidere di andare a fare la spesa dove si spende meno, e io non ho la possibilità di avere i loro prezzi, non sono competitiva a quel punto lì. Mentre una volta ci si muoveva più che altro in bicicletta, in pochi avevano la macchina e se ce l'avevano comunque non lo usavano per andare a fare la spesa, per cui di cose in effetti ne sono cambiate proprio a livello di quantità. Diciamo che questo è un paese che ancora, qua vivono ancora molti anziani e non tutti gli anziani hanno la patente, non tutti gli anziani hanno la possibilità di andare a fare la spesa nei grossi supermercati. Diciamo che ce ne sono anche che preferiscono fare la spesa in una realtà piccola tipo la mia, perché comunque, ecco, la cosa che io ho sempre, diciamo che non ho mai voluto fare quel passo in più, perché io voglio che la gente, quando viene a fare la spesa da me, si deve sentire a casa. E questo, diciamo che la mia caratteristica, ecco, la caratteristica anche del negozio, conosco quasi tutti, anche se devo dire ultimamente io ho anche tanti giovani che vengono a fare la spesa, poi se non è vero che sono solo anziani, ho parecchie famiglie giovani con dei bimbi piccoli che vengono a fare la spesa, e questo mi fa molto piacere. Ripeto, so di non essere competitiva con i prezzi, però faccio anche di tutto per fare delle offerte, e delle offerte anche in autonomia, non solo con il marchio CRAI, ma anche in autonomia, ecco, per dare più vita al negozio e anche per aiutare chi non si può magari permettere quella fettina di carne in più. Devo dire che, come dicevo con Matteo prima, qui c'è una realtà particolare. Io ricordo quando ero sia nel negozio in piazza che nella piccola botteghina del borgo, esistevano i libretti. Che cos'era il libretto? Le persone avevano un libretto, facevano la spesa, facevano segnare, cioè scrivere, non pagavano e mi pagavano quando potevano avere lo stipendio, quando avevano possibilità economiche per pagare. Questo nella botteghina del quello piccolo, insomma, nella botteghina del borgo, era una cosa usuale, diciamo, per quasi tutti i clienti. Un po' meno quando ho aperto il negozio in piazza, però anche lì c'erano parecchi libretti. Adesso, che qua io non potrei farlo, non potrei più farlo in questo negozio. Diciamo che non ci sono i libretti, però io tengo un quaderno dove, se la persona non è in grado di pagare, scrivo il nome, scrivo la cifra e so che quella persona comunque mi pagherà a fine mese. Purtroppo c'è anche questa realtà che molti pensionati non arrivano a fine mese, e questa è la brutta realtà che si vive in Italia. Mm-hmm. Ed è reale, è veramente reale, cioè non si può dire vabbè perché adesso ci sono i macchinoni da 50.000 euro, ma ci sono ancora persone che veramente, ma davvero fanno fatica a tirare fine mese. Io per loro che li conosco, naturalmente sono persone che conosco benissimo e so che sono persone serie, che hanno sempre lavorato ma che hanno qualche difficoltà, io per loro segno la spesa, scrivo la si dice segno che è un gergo, segno la spesa, poi quando so benissimo che quando loro hanno la pensione mi pagano. Ecco, questa è anche per questo negozio è un essere a casa. Cioè loro mi conoscono, io li conosco e c'è questa cosa. Questa cosa io a livello proprio legale io non potrei farlo, perché la finanza non vuole chiaramente, non solo la finanza, cioè proprio tutto quello che riguarda, io non potrei farlo, però io lo faccio ancora. Vedano loro, si mettono una mano sulla coscienza e anche sul cuore, perché davvero ci sono persone, bisogna riconoscerlo, non si può. Non puoi non dare una fettina di carne o un etto di prosciutto ad un pensionato che non riesce ad arrivare a fine mese. Io non ci voglio neanche pensare che quella persona che conosco da quando sono nata non può permettersi di mangiare, pur sapendo che comunque se io segno questa spesa lui appena ha la pensione me la paga. Cioè io non voglio neanche pensarci, cioè se devo fare una cosa così io preferisco chiudere il negozio. Sì, io lo chiudo. Poi cos'altro posso dire? Avevamo parlato delle diverse categorie merceologiche che vanno e vengono come metratura. Sì. Cioè oltre alla pasta monoporzione. Oltre alla pasta monoporzione, oltre alla roba già cotta, quando avevo i primi due negozi piccolini, gli alimenti per cani e gatti non esistevano. O comunque, ma no, addirittura, vabbè, quando era il negozio nel borgo non esisteva proprio l'alimento per cani e gatti, perché gli animali gli si davano gli avanzi. Nel negozietto della piazza qualcosina c'era, ma proprio poca roba. Quando sono venuta qua, io ho dedicato, diciamo, un metro. Sì, ho dedicato qualche metro per cani e gatti, ma adesso ho dovuto proprio ampliare di tanto questo reparto, perché è un reparto per gli alimenti cani e gatti che va tantissimo. Ormai cani e gatti non mangiano più gli avanzi, anzi proprio chi ha animali non gli dà più gli avanzi e si vendono molte scatolette, croccantini, si vende molto molto di quello. Questa è proprio una cosa che è aumentata tantissimo, ma proprio di smisura, che io non credevo nemmeno, però io stessa me ne sono resa conto e ho dato, da una testata che era, adesso ci sono quattro testate. Ho eliminato altre cose che vanno via molto meno. Ad esempio, in una realtà come la mia, la chimica, cioè detersivi vari, sia per lavare lavatrice o per detersivi per pulizia di casa, vanno via molto meno. Questo perché? Perché sono stati aperti, anche qua vicino a me, dei colossi che vendono solo quello, esclusivamente quello, prodotti per la pulizia della casa. E tipo il Tigotà, posso dirlo, Tigotà, sì. O acqua e sapone, e vendono solo quello, naturalmente a prezzi più bassi, perché loro commerciando solo questi prodotti hanno la possibilità di fare degli acquisti grandissimi, possono, e poi sono specializzati, hanno di tutto, per cui io ho diminuito un po' il reparto chimico per aumentare il reparto che riguarda gli animali, cani e gatti. Addirittura anche pesci, uccelli, chiedono tartarughe, mi chiedono di mangiare per le tartarughe. E, quello ancora non ce l'ho, però lo metterò, perché tanto andrebbe via, sono sicura che è una cosa che funziona. Poi cos'altro potrei dire per quanto riguarda Per quanto riguarda la classica sdora che si fa i capelletti, i capellacci, la pasta in casa, naturalmente sono rimaste poche, però ancora in questa realtà ce ne sono ancora. Infatti io, non so, a Natale e a Pasqua devo comprare tantissima farina, perché comunque va via il triplo rispetto ai periodi normali, ecco. C'è ancora chi cucina davvero. Sono sempre meno. Se ho capito bene, poi sempre più concentrati in periodi intorno alle festività. Sì, naturalmente più concentrati. Anche i dolci li fanno ancora, però sempre concentrati lì, Natale e Pasqua. Io vendo molti dolci già pronti, buoni, anche molto buoni, fra l'altro, ma costano, però io vedo che una volta non si vendevano dolci e gastronomia, tanto più che non ce l'avevo neanche il reparto di gastronomia quando ero in piazza, ed avevo un reparto piccolissimo di gastronomia qua, quando ho aperto qua, ma adesso ho ampliato perché dolci e gastronomia noi siamo sempre vuoti, va via sempre tutto. Quindi la gente si orienta più verso cose già pronte. Poi, anche perché sono le donne lavorano, sono poche le donne che sono in casa e che fanno proprio che non hanno un lavoro fuori. Le donne lavorano, hanno degli orari, poi i figli, e poi il marito, e poi la casa. E, insomma, sono cambiate proprio le esigenze. Dimenticavo una cosa però che non ti ho detto, Matteo. Anni fa erano in tantissimi quelli che si facevano i salami in casa, il salame proprio, sì. Il salame da taglio, quelli che si facevano il salame, lo stagionavano e quindi compravano la carne, o addirittura ancora meglio, avevano il maiale e avevano il maiale e facevano i salami e i prosciutti anche con i maiali. Adesso ormai, allora, in tutta Voghiera a me risulta che ce ne siano solo due che lo fanno ancora, anzi no, forse uno solo. C'era un signore che fino all'anno scorso comprava la carne qua per fare gli insaccati in casa, poi si è ammalato, molto anziano, ha quasi 90 anni, si è ammalato, quest'anno non ha fatto niente, e uno credo che sia rimasto, ecco, ma saranno proprio di quelli che conosco io, ma in tutta Voghiera, tutto il comune, saranno uno o due che si fanno gli insaccati in casa. E naturalmente quando si facevano i salami in casa si vendevano anche le budelle di maiale, le budelle insomma per insaccare. Adesso anche quello no, non si fa più. La gente compra salame e salsiccia, noi anzi abbiamo una macelleria e il macellaio fa lui la salsiccia, ne diamo via tantissima, però ormai la gente queste cose non se le fa più in casa. Avevo sentito che per la festa dell'aglio si facevano, cioè erano molto pregiati i salami per l'appunto lavorati con l'aglio. Non sono più prodotti locali? No, comunque il salame all'aglio noi lo compriamo un'azienda, da un ufficio. Quelli non li facciamo noi perché non abbiamo il posto per stagionarli, per cui non possiamo farli. Noi facciamo i salami da pentola, i cotechini e la salsiccia, quella si fa tutto il tempo dell'anno. Qui il cotechino, salame da pentola e salsiccia fresca si fa tutto il tempo dell'anno perché va sempre via. E i salami all'aglio noi li compriamo in un'azienda che comunque lavora bene e non lo dico il nome. Dimmi tu se per te è una cosa che si può dire. No, vabbè, meglio non lo dico il nome. Comunque sono di Vigarano, per cui sono qua in provincia di Ferrara, fanno i salami all'aglio. E la gente, ecco, a Voghiera il salame deve essere all'aglio. Sono pochi quelli che prendono il salame senza aglio. Okay. Abbiamo anche quello, chiaramente. Però a Voghiera è abituata con l'aglio. Il salame all'aglio va via tanto, come la zia, si chiama zia, è sempre un insaccato, è sempre un salame, è solo più grosso e ha più aglio, è più saporito. Quindi è parte della cultura locale, proprio questo prodotto alimentare. Sì, la zia ferrarese e il salame all'aglio fa proprio parte della cultura locale. Una volta si facevano proprio in casa, eh? Mm-hmm. E quando avevo il negozietto nel borgo, mio papà e mia mamma avevamo lì, eravamo in campagna, per cui avevamo una camera adibita per la stagionatura dei salami, e avevamo una casa molto vecchia, per cui c'era il posto, e lì facevamo noi, cioè facevano loro, non noi perché io ero piccola, però facevano, io aiutavo però, facevano loro i salami con l'aglio e anche senza, no, più che altro con l'aglio, e le zie. E li stagionavamo e si vendevano così, però poi adesso, insomma, adesso si comprano. Adesso li compriamo da questo salumificio, anche perché è proprio un problema di stagionatura, perché se non viene, se il salame fatto in casa non viene stagionato bene, succede che si forma una bolla di aria in mezzo, sì, che poi diventa rancido ed è da buttare tutto. Per cui ci vuole proprio una stagionatura, un posto dove potergli stagionare bene. E c'è anche una competenza proprio nel realizzarlo. Sì, sì, sì. Se adesso non ci sono più le case adatte, le case moderne non hanno più la camera dei salami, come era chiamata una volta. Al massimo in Trentino Alto Adige. Ma sì, forse là li hanno anche altre tradizioni. Qui la camera dei salami veramente ormai sono in pochi ad averla. E rischi di fare e di buttare via tutto, A noi è successo un anno, non so cosa sia successo, però anche Magnoni, Magnoni, nonostante abbia proprio l'azienda che fa solo salami e zie, è successo che hanno dovuto buttare via un'intera partita di salami perché non erano stati stagionati bene, c'era stato un guasto da qualche parte, insomma non erano stati stagionati bene. Chiaramente Magnoni non ha la camera dei salami. Ah, ecco. Magnoni non ha la camera dei salami, ha una stanza apposita con una certa temperatura, insomma adesso. E nonostante tutto. E nonostante tutto, evidentemente è andato male qualcosa. Poi ecco un'altra cosa, come dicevo a Matteo. I prodotti senza lattosio una volta non esistevano. Non c'era. Addirittura noi anni fa prendevamo il latte direttamente intero, direttamente dalla stalla, quindi quello. E una volta non esistevano i prodotti senza lattosio, mentre adesso vanno per la maggiore, iniziando dal latte, gli yogurt, tutto quello, i formaggi, tutto quello che comprende le mozzarelle, tutto quello che comprende i prodotti, i latticini, io non so perché siamo diventati tutti intolleranti al lattosio, io stessa che non sono intollerante, però preferisco usare quei prodotti lì senza lattosio perché non gonfiano, in effetti è vero, dopo che facciano male che facciano bene non è di mia competenza saperlo, però diciamo che c'è una svolta sui latticini e c'è gente che proprio se non c'è quel prodotto senza lattosio non lo compra, per cui va in altri negozi dove lo trova, sì. Di conseguenza io sono tenuta a tenerli ed è proprio in forte crescita questa cosa, e non solo sui latticini ma anche su altri prodotti alimentari, la gente guarda proprio se c'è lattosio, cominciando dai dolci, dalle pastine, anche le pastine per la colazione, ecco, e quelle senza lattosio cominciano a prendere, a far man forte, diciamo che proprio quelle cominciano ad andare via molto di più rispetto alle altre, anche perché il lattosio si trova un po' dappertutto, addirittura ci sono nei salumi. Salumi, però anche lì i salumi, naturalmente il lattosio non si trova nel prosciutto crudo, ma nel prosciutto cotto sì. Io ultimamente, in questi ultimi anni, il prosciutto cotto con il lattosio non ce l'ho proprio più, non l'ho proprio più preso, anche perché le aziende stesse tendono a non farlo più, ecco, non è più un prodotto che va. Cambia il mercato e cambiano le persone. Cambiano le persone, sì. Cambia il modo di mangiare. E cambiano tante cose, cambiano, diciamo che come ha detto Matteo, è il, come dicevi, È il consumatore che va dietro al prodotto? È il mercato che segue il consumatore. Esatto, è il mercato che segue il consumatore. E proprio per questo un supermercato è anche un po' una testimonianza di come cambiano i gusti delle persone. Sono cambiate tantissimo. E anche poi un atto di bilanciamento abbastanza complesso tra spazio limitato, prodotti sempre più diversificati, più specializzati e i gusti che cambiano. E un'altra cosa, siamo in un periodo di crisi per tutti, perché la crisi c'è, la si sente per tutti, per cui una cosa che adesso va per la maggiore sono i prodotti o a marchio, cioè marchio inteso non... io ho un CRAI, i prodotti a marchio CRAI hanno un prezzo inferiore rispetto ai prodotti di marca, cioè... La Barilla, la Mulino Bianco. Ecco, preferiscono i prodotti a marchio piuttosto che i prodotti di marca, ma non perché lo preferiscono perché è più buono, è buono uguale, comunque posso assicurare che siamo lì. Ma perché costa meno, per cui la gente cerca anche di risparmiare. Io cerco di tenere molti prodotti a marchio e meno di marca. Ad esempio, io faccio un esempio molto semplice, il detersivo per lavare i panni. Il Dash era quello che una volta andava per la maggiore, c'era solo il Dash, Dixon. Adesso comprano lo stesso detersivo, fatto magari nello stesso stabilimento, però si chiama CRAI, e costa quei 3-4 euro, anche meno, dipende quanto se ne prende. Ed è lo stesso detersivo, lo posso assicurare, perché io spesso guardo in che stabilimento è fatto questo prodotto, in che stabilimento è fatto questo della CRAI. E sono sempre gli stessi. E molto spesso è lo stesso stabilimento. Per cui la gente, per risparmiare, cerca i prodotti di, non più di marca, ma a marchio, che io in questo caso CRAI, ma può essere Despar, può essere Coop, e si spendono meno, e poi adesso c'è anche il prodotto da prezzo, da primo prezzo. In questo caso noi abbiamo il prodotto l'arancio, che sono prodotti buonissimi, ma che costano veramente poco. Sono prodotti, io li chiamo da discount, ma comunque hanno prezzi da discount. Per dire, i surgelati, io li tratto molto il prodotto l'arancio surgelato, perché è un prodotto buonissimo. Naturalmente non ci sono le confezioni da duetti, c'è solo il chilo. Sì, esatto. Però costa come la confezione da duetti. Ed è un prodotto molto buono. Addirittura io servo anche una mensa e prediligo dargli questi prodotti, perché la mensa deve spendere meno. Chiaramente. Però se la qualità del prodotto rimane molto simile. La qualità è buonissima. Io stesso ho provato questi prodotti. E non solo io, perché poi me l'hanno anche detto i clienti, li hanno provati e sono veramente prodotti buoni. Ecco, cerco di concentrare certe cose, soprattutto la roba di prima necessità, prendendo prodotti o a marchio o a primo prezzo. Poi c'è sempre la signora Maria, fra virgolette, che è la classica signora che viene anche 3 volte al giorno, anche solo per vedere gente, per stare in mezzo alla gente. Che è fissata sul Dash, perché una volta e compra il Dash, chiaramente, quello lo devo tenere. Però cerco di eliminare il più possibile tutti quei prodotti che costano di più e sono, e posso assicurare che sono identici a quelli che costano meno, ecco, o a marchio o primo prezzo. Ti faccio una domanda conclusiva un po' per raccogliere i fili. Sì. Com'è operare in uno scenario di logistica, catene alimentari, sempre più complesso, sempre più diversificato, sempre più globale? Immagino che... Difficile. Nel negozietto di famiglia, in piazza, non c'erano i prodotti che venivano da tutta Europa, arrivavano dalla zona di Ferrara al massimo. No, comunque non è semplice. Non è semplice questo lavoro, non è semplice... E più si va avanti più diventa difficile, devi comunque essere anche imparare ad usare il computer come se tu ci fossi nato, perché comunque senza quello non si fa più niente. È tutto digitale, per cui per me che ho 67 anni non è così immediato, non è immediato, però diciamo che io sono anche una persona molto curiosa. tutto quello che è nuovo a me incuriosisce e mi piace impararlo. Poi che io ci metta 2 mesi o che ci metta 2 giorni, quello vabbè. Però non è semplice, chiaro. Ma la cosa più difficile in questo lavoro, allora io lo dirò sempre, e questa è una cosa che mai un cliente mi ha dato dei problemi, non sono i clienti che danno dei problemi, anzi, il cliente è quello che ti fa aprire la porta la mattina, che ti fa mantenere dei dipendenti, perché ho dei dipendenti, tutti questi dipendenti hanno una famiglia, per cui se viene dentro il cliente io posso pagare il dipendente, se non viene dentro io non posso pagarlo. Per cui, e poi in tutta sincerità, cioè non è il problema, il cliente a me non mi ha mai dato nessun problema. Se c'è qualcosa che non va me lo dice, io cerco di risolverlo e si è sempre risolto. Ma il problema è la burocrazia che c'è adesso. E proprio questa burocrazia mi fa perdere un sacco di tempo che io lo dedicherei di più al negozio, a sistemare la merce, a vedere se c'è qualcosa da cambiare. Anche il rapporto con il cliente. Il rapporto con il cliente. Anche stare a parlare con il cliente. Io sono una chiacchierona, poi a me piace parlare con i clienti. Però di fatto in una comunità così piccola è anche il motivo per cui tornano e scelgono di non prendere la macchina ed andare alle percorse di 10 km. Sì, anche. Però quello che la cosa più difficile è diventata proprio tutta la burocrazia, ma per delle sciocchezze ci devi perdere delle ore attaccato al computer e poi magari mi sbaglio e devo rifare. E per quanto io abbia un commercialista, però diciamo che il lavoro più grosso è fatto proprio all'interno del negozio. Sì. Il commercialista non fa altro che andare a vedere le tue fatture, tante fatture, tanto incasso e basta, il commercialista non fa altro. Anche perché quella parte lì delle vendite in sé è automatizzata adesso, è fatta attraverso la cassa, quindi esce già in digitale. Sì, è tutto in digitale. Il problema adesso sono i permessi, la burocrazia per tutto ciò che sta intorno alla vendita. Tutto quello che c'è intorno, tutto anche per tenere in regola i dipendenti per quanto riguarda la KCCP, il PPR, tutte queste cose è difficilissimo. Cioè io che sono la titolare dovrei passare tutta la mia giornata in ufficio a fare questo. A scrivere permessi. A fare questo. Ed è per me, e io non sono la persona adatta. Io sono la persona adatta a stare in negozio, anche perché io lo dirò sempre, io non sono io non sono una manager, non sono una brava imprenditrice, io sono una bottegaia, io sono una brava venditrice e io mi ritengo proprio la bottegaia perché è questo che io sono. Purtroppo mi sono accorta che facendo tanti errori, naturalmente perché ne ho fatti tanti e me ne pento, ma non so cosa farci, gli ormai li ho fatti. Bisogna essere bravi imprenditori più che bravi venditori o comunque però in un negozio così piccolo devi anche vendere, cioè è quello, devi portare dentro gente e se tu fai solo l'imprenditore ti chiudi in ufficio, non lo fai questo lavoro e puoi anche rischiare di chiudere il negozio se non fai il venditore, è un gatto che si morde la coda, eh? Sì. Sì, diciamo che perché nelle grosse realtà c'è chi sta chiuso in ufficio e decide, chi ha contatti con il pubblico, anche se contatti grossi con il pubblico nei grossi supermercati non ce ne sono. Sono i cassieri, sostanzialmente. Sono cassieri, sì, non c'è. Però siamo sempre lì, i grossi supermercati sono nelle città, qua siamo in un paese. E qua la gente ha bisogno di venire dentro e dire, ma anche se mi vedono lì, dicono, Vanna, ma dov'è la tal cosa? E io vado e glielo accompagno. Non si prendono su e vanno a cercare. È quello. Io vado, glielo accompagno, li faccio vedere, poi magari gli dico, vedi qua, trovi lo zafferano, perché lo zafferano è una spezia, è vicino a tutte le spezie. E a proposito delle spezie, hai l'erba cipollina, e mi prende anche l'erba cipollina, però è così. È così, qua in questi negozi purtroppo, cioè purtroppo fra virgolette poi è, perché a me piace anche, non è che, non mi pesa. Continueresti a rimanere qui, esatto. Sì, continuerei a rimanere qui se ci fosse però meno burocrazia. Adesso, vabbè, adesso c'è anche una cosa nuova per quanto riguarda la cassa e gli scontrini fiscali, il POS, che io credevo di essere a posto, invece ci sono altre cose da fare, perché la finanza ti obbliga di fare altre cose. Adesso vedrò, adesso io so già che ci perderò 2 o 3 giorni solo per questa cosa e non mi piace, e questo non mi piace. Cioè dovresti assumere una persona che fa solo questo, lo so, che però è una spesa, non me lo posso permettere, al giorno d'oggi non me lo posso permettere, quindi bisogna fare quello che, che è anche un po' il motivo per cui si tende a la scomparsa dei singoli negozi, la scomparsa è anche quello il motivo, perché ti serve comunque una persona. Cioè io sto adesso, va bene, ultimamente sto anche molto a banco perché ci sono delle ferie, io sostituisco anche questa banco, però tutta la mattina io sono al computer, tutta la mattina, poi sbaglio delle cose, poi le riprendo e poi le rifaccio e ci metto del tempo, però non è il tuo lavoro, ma di fatto diventa il tuo lavoro per forza. Diventa il mio lavoro per forza. Ripeto, io non sono un'imprenditrice, ma sono una bottegaia e una brava venditrice, quello sì. Quello sì. Bene, ti ringrazio assolutamente. Hai altre domande da farmi? No, per il momento ti ringrazio. È stato assolutamente uno spaccato sul cambiamento degli italiani, delle loro abitudini elementari, di com'è poi gestire una realtà che di fatto è un servizio per la comunità. Sì. È un punto di riferimento, sia per le proprie necessità quotidiane, sia anche un po' per come spazio di socializzazione, di rapporto con gli altri. Socializzazione sicuramente. Beh, ci sono le solite 5-6 clienti che vengono dentro, si trovano più o meno alla stessa ora e loro stanno anche un'ora a chiacchierare, tanto che io le prendo in giro, le dico volete caffè, cappuccino, una tastina. Sì, ma però ci sono, mi fa piacere che ci siano. Cioè fanno parte proprio di tutto il contesto, è piacevole averle lì, ecco. Ti ringrazio, con questo concludiamo l'intervista. Bene.